Thank you. Vergine, soffio, con un soffio, io smaltirò. Io smaltirò per celare il nuovo sonno, le tue facce ancora il giorno, con un soffio io smaltirò. Accenti della infirma umane menti, ogni idea confonderò, confonderò, ogni idea confonderò. Per celare il nuovo scorno, le tue facce ancor al giorno, smaltirò. Con un soffio, io smaltirò. Io smaltirò. Per celare il nuovo scorno, le tue facce ancora il giorno, con un soffio io smaltirò. Terra all'improvviso. Thank you. più risplende, ma più risplende.